nessuno. Boh, io nel terrazzo, sinceramente, non senti più nulla. Ho acceso prima, ma non c'è nessuno, che capito. Non è il mio tocco la danza a radio a Baida Mila. Invece di ascoltarmi QRM la radio. E via. Saremmo andati da qui, non c'è nessuno, cosa ti rifai? Ah, beh, io qui, alzo il volume, cioè non è che ascolto da altre parti, capito? Per me niente, è pieno già, è pieno, si può ascoltare. Sì, sui 7100, lo so, a chi ascoltavo lì? È pieno, sì, in 40 metri io ascolto. E anche in 40 metri ce n'è di gente, ce n'è di gente in 40 metri, ci sono anche quelli abusivi. Io ci sono più... non sono proprio 40 metri. Nel 72 una volta non si capisco nulla, anche perché quel microfono amplifica, quindi non si comprende nulla. E ci sei? Sì. Poco fa mi stavo dando uno sguardo, ci sono 680, 430, tanti di voi, poi tutti arrivano dall'America, da fuori. Prendilo. No, non devo prendere niente, stavo solo guardando il clacciato. Quando c'è di antenne, okay, la radio serie in DSP, si capisce. E via, avanti. E via, me ne sto facendo uno, solo perché, guarda, a saldare tutti i componenti che ci sono, là, veramente, però, dai, appena è finito, speriamo che funzioni, e che funzioni bene, te lo faccio sentire. Ma di cosa? Di cosa lui? Di DSP. Una vera radio con DSP digitale, uno inserire un DSP in una radio analogica, lascia verde. Lascia radio digitale al 100% con DSP ed è veramente uno spettacolo ascoltarla. Però poi è venuto Fabrizio già a casa. L'ultimo decimale all'ultima radio arrivata, che non ce l'aveva. Adesso finalmente c'ho i due decimali, perché con uno a sintonizzare non è che veniva molto bene. KK e K di Roggero, questo è il 430. Sta andando, sì, tutta la comparazione, però il 430 ribatte tutti. Anche l'altro 140 come modulazione, come ricezione, come tutto, non c'è niente da fare. 430 KK in Vigiani ancora in litigio, io via. Adesso non mi ripiglio un altro buco. Al saluti mi hanno fatto l'offerta del coso, infatti lunedì mi deve mandare foto, se mi piace non lo prendo, mi trovo anche quello del ce l'avevo già, il 940 500 euro, bello, è nuovo, però mi è piaciuto tanto che non lo uso, fammi un video prima di mandarlo su tutte le bande, dai 10, 15, 20, 40, 80 e 160, non me ne frega niente. E assieme a tutte le ci metti anche qualche passaggio, mi fai vedere un po' come funziona in 11 metri. Nuovo, 500 euro non si può comprare. Mi ha preso a dare vittime. E quello per la M va bene? Sì, 940, io due va bene. C'ha 40 watt in M. Si può aumentare di più, però vabbè, quello no, completo di tutto. E ce l'ho avuto io qualche anno, ho ottenuto, ma è un cazzo, ho ragione, è due volte del Galaxy, quindi adesso se decido di prenderlo, ma se mi fa il video che la radio funziona bene, vado io a prendermelo, capito? Poi la provo di supporto, perché a Aurista trova sicuramente toglierò il Galaxy a mezzo ai coglioni e lo metterò al posto del Galaxy a fianco alla linea Yaish. Ciao ragazzi, e ce ne posso dentro l'armadio. Ehi, a luglia ci sono due ripiani vuoti ancora, era la piana all'odore lì, c'erano tutte le radio vintage. Ci butto dentro il Galaxy e rimane lì, non metto 9.40. Se c'è bene non è di Nagyar, cazzo, non ti compare, c'è una HF, cazzo. Buh. Ah, li butti, sciogli, e spendili. Ecco, sto valutando, là. Sto valutando perché in questo periodo non sto bene, ci sono delle spese sicuramente grosse da fare. Volevo vedere un pochettino la situazione, là. Ah, io, cazzo, mi pare un genovese, mi pare. Ci viviamo tutti nell'oro, ma io le soddisfazioni non me le tolgo, me le frega niente. Già ne ho soldi per vivere, per stare bene. Grazie, me ne affutti tanto. A mia figlia non serve niente. A me e mia moglie siamo a posto. Cosa devo conservare ancora? Ah, mi viene in culo. Gappa, gappa. E Luca sta saldando. Com'è questa radio da 4.30? Va bene, ho troppo alta. No, io va bene, la puoi anche portare qua. Sì, sì, domani devo avere 4.30. Ah, 4.30 non esce più da qua, assolutamente. Cercatevelo, compratevelo, state attenti a quello che vi ho detto. Chi abbia il filtro M, se non ci buttate via i quattrini, perché non mettetevi in testa di comprarla senza filtri per risparmiare e poi andare a cercare il filtro. Perché io mi ricordo la prima, cazzo, era costa qui di Matera, perché ci avevo buttato 300 euro, capito? Ma la matta, 300 euro senza il filtro M, e poi io glielo trovo. 6 mesi ci ho messo per trovarlo negli Stati Uniti, gli ho pagato 20 dollari. Lo so, non l'avevi detto, Sicla. Io già lo so. Ma una volta che c'è quel filtro è una bomba con la radio. Infatti quel filtro te la vendono 400 euro, 450, perché è un ricevitore che fa paura. Io lo conosco una vita, non l'ho comprata nuova, ma mai non fa, rifiutati. E quando poi hanno fatto il 440, subito dopo, io facevo le comparazioni, ce le avevo tutte e due, cioè, ma non è possibile. Non è possibile, cazzo, c'è il 440 uscito dopo, con un accordatore, tutti i filtri, cazzo, questo 430 micidiale, ed è stato confermato da persone che ne sanno, capito? Ne sanno, 430 superiore al 440, un ottimo ricevitore, in AM va benissimo, capito? Quindi non ce n'è per nessun, poi questa. Questa è spettacolare, questa è nuova, nuova, nuova, come c'era Fabrizio stamattina. È venuto qua a farmi un lavoretto a una radio perché sono stare a portarla lì per più di 5 minuti, tagliare una resistenza per l'ultimo decimale che non ce l'aveva, sta nuovo. Ha detto minchia, nuova, nuova, nuova, proprio spettacolare. Ma quale? Quella l'ultima? Sì, sì. Yes, yes. Ah, non si poteva fare da reset, Mica che Gianni sta confondendo col 140. Col 140 no, cos'è 140? 140 è un'aria gada, ti mi premuto clear, volevi aprire la radio, andare nella scheda unit e tagliare una resistenza per l'ultimo decimale. Ah, ecco. No, perché mi ricordavo così che avevi premuto reset, l'avevi spento, ho premuto reset e poi riacceso e c'era già decimale. Sì, perché no? 140. Facilissimo. 140 sì, 80, però 440 e 430 e altre radio che hanno la scheda unit diversa. Bisogna tagliare una resistenza. Bisogna tagliare una resistenza per apparire. Gappa gappa è il gappa del roccio. Ma spiegami cosa c'è, vendi lui. Non ho capito cosa stai facendo. Aspetta, basso la potenza. Oh oh oh. Ma c'è una troppa. Devi sottovalare un 20 watt. Qua dove c'è che ho toccato. E ce n'è una 40, adesso 20, modulati 40, già va bene. Sì, io sto sta inventando, Luca? Sta inventando qualche altra cosa? Sì, un 10P sta facendo, su 40. Non ho capito, certo? Ho detto, magari va anche bene. Non so, io... Gli analogici sono analogici e devono andare senza 10P. Io ho l'effettino per 20 digital e c'ho il 10P, quindi me ne accorgo della differenza. Poi c'ho la colonnina, l'SP8 di linea che c'ha 6 filtri, perciò già anda beh anda. Ehi, avanti Luca, sei andato al concertone a Porto Torres Claudio venerdì? Non ho capito. Ho detto venerdì ci sei andato a Porto Torres al concerto che c'era la torre. No, ci vado più a queste cose, non già. Venerdì ero impegnato a fare altro. Poi sabato mattina dovevo stare presto, dovevo scendere giù da Valle. Ma tu? E hanno fatto il concerto per quella donna che praticamente è stata ferita dal marito con l'accetta, che aveva ammazzato anche i suicidi, no? Per raccogliere qualche soldo perché è ancora ricoverato. Ma chi è ancora ricoverato? Ma quello è morto il poliziotto, è morto il poliziotto, è la mamma, lei no? No, lei è ricoverata ancora, non l'hanno operata, affatto, è ancora ricoverata a Urbia. La figlia del poliziotto? Esatto. Esatto, la figlia è ancora ricoverata, i bambini c'era la zia, è salita anche la zia sul palco per ringraziare eccetera, e si sono dati da fare, dai poverini, i cittadini produttori già hanno fatto un buon atto. Hanno fatto un buon atto, si può fare i migliori, avrei legato a cazzo, avrei messo una pietra al collo, avrei buttato dalla, no, da balai, no, che è troppo... bassa l'acqua, la ginara l'avrei buttata, ci sono 100 metri di fondale, figlio di puttana, ma dimmi se si può fare una cosa del genere, uno cazzo. Adesso immaginate queste creature, la madre è ricoverata, il padre in galera e loro sono con la zia, capito? Padre, non è padre quello, padre secondo te è quello, non bisogna neanche pronunciarla la parola padre. Che un padre vuole bene ai figli e alla moglie, non li ammazza i genitori e per poco ammazza anche a lei. Il cazzo di padre è quello. Ma io pensavo gli avessi accoltellato, invece ho usato l'accetta, capito? Ah, l'ho ancora usato. E sì, che ridere. E via. E con che freddezza, era tutto premeditato perché c'era la macchina, ma quando me non si sega la roncola, l'accetta in macchina, boh, era tutto premeditato. Boh, l'aveva già minacciato altre volte, cosa dobbiamo parlare, cosa dobbiamo dire? Boh, speriamo che se la salvi, perché non è che sia ancora bene, erano operata diverse volte, ho sentito il concerto, è salito un amico di famiglia e ha parlato appunto di questa cosa e ha detto che facevano il concerto. Io c'era Irene, mia sorella, che mi stava chiamando a Porto Torres, non l'ho sentita perché c'avevo il silenzioso e praticamente c'era il concerto venerdì e dice che c'era un bel di gente. Non lo so, no io venerdì no, siamo usciti. Sì, ma a proposito di queste cose poche ne sono successe, due volte mi pare, anche un poliziotto mi pare un'altra volta, lo stesso è successo qualche cosa, adesso non mi ricordo bene, però non se ne sentiva mai queste cose qua, boh. Com'è che loro non sono manco portatoresi, mi pare? No, faceva servizio alla polizia marittima, alla Polmar. Faceva servizio alla Polmar lui, faceva servizio al Varco, cazzo, l'ho conosciuto io, col suocero di Massimiliano, signor Francesco. Lui era arrivato a Portoise che era un bel giovane, capito? Faceva servizio alla polizia marittima, alla Polmar. ufficio che avevano la stazione da formare era dietro Battetta, lì dove c'è a lungomare, lì dietro, non ricordo che via è quella, c'era lì la caserma, figura di due. No, una vita quell'uomo a Porrottore. Mi ricordo che da via la piazza Petrosca si vedeva questa antenna alta, quella lì era Polmar. Sì, Polizia Marittima, sì. Infatti mi chiedevo sempre che di che cosa fosse quell'antenna. Si vedeva la piazza Petrarca l'antenna. Sì, sotto proprio. La piazza Petrarca la vedevi sotto. Capito? Lì c'era la caserma della Polizia Marittima, della Polmar. Adesso invece dove c'è la marcatoia, dove c'è la questura. Sì. C'è il poliambulatorio. Ci ho capito, ho capito. Canile, matatoio, ex matatoio che non esiste più in Chivia. E basta. Sì, io sono andato diverse volte perché gli fornivo l'acqua al poliambulatorio. Sì, no, c'è la propria col comune, insomma, in quella zona lì. C'è la caserma della polizia. È lì. Polizia Marittima, poi c'è un distaccamento anche insomma del 113, non so. Brutte cose sono già, brutte cose, cazzo, ma dimmi tu, uno deve sterminare tutta la famiglia, cazzo, pezzo di merda. Chissà cosa va via in campo in questo momento, secondo me è impazzisce la gente, perché non è possibile che una persona normale possa arrivare a fare certe cose. Io non ho il coraggio di ammazzare un animale, figurati una persona. Lo so, purtroppo però la gente è così, visto quanto se ne sente in televisione, questi pezzi di merda che fanno queste cose alle ex, alle mogli, alle fidanzate, li buonano in fuoco, le buttano l'acido. Anzi, quello l'ha preso la ragazza martellata con l'altro pezzo di merda da poco. Probabilmente c'è di Gabbo. O c'è una poca informazione prima, ma non se ne sentiva prima di queste cose. O c'è una poca informazione, oppure è adesso che sta girando il mondo. Già stanno succedendo catastrofi di tutti i generi qua. A Milano addirittura ha nevicato, ma che immagini? Non hai visto già fatto in Umbria? Non hai visto? L'ho già fatto in Alta Italia. C'è anche un bambino sardo disperso, Mattia. Non hai visto cosa ha fatto, sono 10 morti. Si stava portando via le macchine, l'acqua, non hai visto cosa faceva. C'è un'ambulanza che stava soccorrendo, che si è portato via l'ambulanza quanto c'era, l'ha fatta come se fosse un pezzo di carta, l'ha fatta andare. Già, ho lavorato 40 anni e mezzo all'acqua, io ne ho visto tutti i colori, quindi la forza che c'è l'acqua, manco Ercole via, ma futti di porta via tutto, trascina tutto. Trascina tutto, capito? Trascina tutto, fa certe voragini, cazzo che non viene bene a dirlo. È allucinante, poi così, questi paesi, queste città, paesi sono, paesi in provincia delle grosse città, c'hanno tutti questi cazzo di fiumi e dentro il paese, capito? E quando c'è la piena, che piove, ne sale, e ne scivola, è la colpa di che cazzo è, del fiume, di tua che non hai costruito gli argini, cosa stiamo andando a dire, quella è calamità naturale, se il fiume deve ricevere tanta acqua, e tu lo sai che la può ricevere, quando c'è queste piogge forti, gli argini devono essere sollevati, e il paese deve essere protetto. Invece no, tutti questi cazzo di fiumi camminano dentro, passano dentro i paesi, senza argini, con questi ponticelli per attraversarli, ma di cosa siamo vedere? Ah, li sollevi i muri, fai i muri in cemento armato. Claro, ma prima queste bombe d'acqua non succedeva, la verità è che adesso ci sono queste bombe d'acqua e in un attimo riempiono tutto, capito? Prima di queste cose, chi ne aveva mai visto bombe d'acqua così? se ho vento, pioggia, che se ho visto in questa Rimini, mi pare una ricciola, adesso non mi ricordo, cazzo, tutta praticamente lì, tutti gli ombrelloni volando, il mare che avevano la veranda, tutte le verande che volavano, il padre cercava di tenerle, il figlio gli diceva no, lascia, cercando di tenerle per non farle volare. Sì, infatti avevano filmato barche dal mare nella spiaggia, proprio arenate nella spiaggia. Il mare è tremendo, l'acqua è tremenda, non venuta da là. Quando parte, no? Non c'è niente da fare. Praticamente di una sciosciu, i tipici che alleva del baion. Claro, la forza della natura, tra acqua e fuoco, c'è poco da scherzare. Io mi ricorderò sempre la volta che stavo andando a lavorare alle 5 e c'è stata quella tromba d'aria, mi ha rotto un albero davanti alla macchina, l'ho scartato, mi ha tolto tutte e due le pattane, poi sono riuscito a scartarlo con il rame, mi ha tolto le pattane, non mi potevo manco fermare perché c'era l'acqua che arrivava sul cofano. Lì al sorso di Bidra si scendeva l'acqua, nell'equivio del sorso di Bidra si scendeva l'acqua dalle campagne, ma a fiuti, ma è un fiume. Pericoloso, soprattutto quando ti trovi così, è pericoloso. Quando sei in strada ci sono queste calamità naturali così, è molto pericoloso, perché ti porta via, travolge, non vedo dove va, devi cercare di essere pronto e camminare, non fermarti mai. Fino a dove puoi camminare, capite? Perché altrimenti è un casino. Ho fatto un casino nelle Marche, in Chiesa. Luca, cosa stai facendo? Praticamente la natura si sta ribellando nei confronti dell'uomo che è inquinato. È così. È come le valanghe, la stessa cosa, si staccano, non c'è protezione d'alberi, non c'è niente, perché devono fare le piste, ma fatti in culo la pista, lascia stare gli alberi che proteggono sempre, gli alberi proteggono. Ma l'uomo sai come, no, non hai visto casa che hanno fatto andare la funivia senza freni e la massa duraienti per fare i soldi, solo perché c'erano i turisti e non dovevano perdere i soldi dei turisti, capito? È una massa duraienti. Cosa? Controllino. Ma se devi comprare un draghiera questo? Non so, se non hai capito tu più a Dio. Chi è? Che com'era, controllo? Non capito. Tu impastato sei, chi sei? Sei tutto impastato. A me sembrava Tonino. Oh, ma è tutto impastato, tu sei? Tu sei. Si devo avere proprio un controllo. Che è avanti? Come già riprenderà là? Io non ci riuscivo proprio a capire le parole. Anche io sentivo tutto impastato, segnale a 9:10. Per ora tutto impastato, non so. E magari si è trovato qualche apparecchio da regolare. Siamo qua, ma se no non prova. Io non riuscivo a capire chi era. Toni, tu sei. Luca, riprendere voi. Facciamo roba qua. Chi è che mi cerca? Buonasera. Ciao tu. Ma tu sei? Io sono adesso qua, e certo chi è. Io non so cosa stai dicendo. Ti sento male, cazzo. Ma perché adesso ormai sto cercando? La modulazione non è chiara, tu bene lo senti già. Un po' metallico, ma già lo capisco adesso, prima non l'ho capito. Ciao Tony. Ciao. No, io ci sono adesso baracchino, ma sto usando il solito Galaxy. Com'è che normale, boh, basta. No, adesso già va bene, forse è troppo attaccato al microfono. Cosa è successo? Quando sei entrato non ti ho capito. Sapevo manco che di tu. Il controllo 9:10, ma radio 5 non te la do. Con questo microfono ma carizzai, ma è suo originale. Ma perché ti ho sentito sempre bene di radio, grazie di tutto. Non mi piace, sto metallico, mi preoccupo. Però segnale tuo, 9:10. Vai già che vado a fare una sigaretta, ciò che è entrato Tonino. Ehi, cosa gli hai fatto tu? Cosa già? Ma qualche cosa gli hai toccato? Io ci sono appena adesso, sono entrato e vi ho salutato, perché? No, ho detto, hai toccato qualcosa in quell'apparecchio, perché stai facendo così? No, io non ho toccato niente, è spento da un bel po', l'ho acceso poco fa, sarà 2 minuti fa, 3 minuti fa, non di più. Io ho sentito nulla, mai, non è stato mai aperto il tuo baracchino. Adesso va meglio, ma come sei entrato? Non si capiva, non ho capito manco che i tubi. Si è detto non si capiva nulla. Ma con questo baracchino? Non so se sei tu, io penso che fossi tu. Ma io sono appena entrato adesso che con voi, sono più salutato. Allora non eri tu, perché Luca ha detto mi è sembrato Tonino. E infatti poi si è detto tu eri tu. Però vabbè, magari era qualcun altro. Appunto, lo so. Però sa, ci ha detto di accedere se c'è qualcuno. Che di solito non c'è mai nessuno. Ci siamo tutte le sere. E che io non accedo quasi mai, mi appoggio al letto, mi guardo la TV di Max, capito? E compagnia cantante. Cara, non dire che non ci siamo, tu non accendi, è normale che non ci siamo. Cavagalo. No, a verità io vengo qua piano piano, zoppicando, accendo, qualche secondo poi spiego, non c'è nessuno, è ben fatto. Quando accendo io c'è l'attimo di bianco, te lo vedi e spengo. Non sei paziente, invece lo lascio col cuore e metto quando qualcuno bussa rispondo. Ma non si usa più bussare, dai, c'abbiamo il campanello. Cappa, Luca non risponde. Claudio. E via. Riprenditela. E Tony dall'ala dove è andato? Tony. Sono qua, non fumare che ti fa male. Lui è una puttana sigaretta qua, sta arrivando qua. Oh già. L'odore di sigaretta qua sta arrivando. Ma lui, la c'è una faccia due tiri, la butto, no? Fumo a caso io. Giusto così. No, e ci avevo fumato io prima, sì, finché quando lavoravo fumavo un bel. Ah, ci fumo poco io. Adesso è cuoco, ma se c'è dato la coccaina. Io ho smesso di fumare aprile 2015 e ero piuttosto sigarette. Tony, io posso smettere quando voglio, ma sai perché non smetto? Perché sto sempre mangiando. E grazie a Dio mi sto tenendo di peso, proprio il mio peso è sempre costante. Io sono arrivato anche a 90-92 kg, capito? E mi fa male troppo la schiena, invece sono adesso sempre intorno agli 82-83, va più che bene. Se io quando c'ho fame non mi accendo una sigaretta e le do due tiri, la butto, ciù, o mi mangio un panino, o mi metto a mangiare merendine, mi metto a mangiare cazzate, capito? Io ho smesso di fumare, però negativo aver, diciamo, mangiato. Anzi, ti dirò una cosa, sì, quella faccetta che c'avevo, 94 kg, eccetera. Dopo questo incidente, tiro che sono sceso parecchio di pancia. Me l'ha fatto notare anche quella che mi fa l'iniezione alla pancia di trovini di trombi, eccetera, l'eparina. Infatti mi sono guardato un po' di profilo e vedo che è calata parecchio la pancia. Ma meglio così, sto mangiando anche poco, poi tra l'altro. Ma mi tengo in peso, diciamo, molto più leggero. Ed è meglio anche per me, pure le camminate che mi sto facendo, con questa scarpa, io penso, oltre, mi sono fatto accompagnare solo le sole, devo fare più su vicino al bullying. Devo fare cosa? Poi da lì piano piano me ne sono sceso sino a Piazza Zuni e mi sono seduto. Lì è parassato poi il camion della spazzatura con Marino, ho salutato, però ci fai un caffè mi sto prendendo, per dirti. E poi sono venuti a prendermi là a Piazza Zuni. E mi ha fatto ben bene a fare quella camminata, lo sai, ma ogni tanto te le faccio queste camminate. No, camminare fa bene, io camminavo molto di più quando ero in città, adesso chiaramente sono fuori città, cammino meno, però sono più in movimento, anche stamattina mi sono fatto il giardino bello tutto pulito, ordinato, ho lavato tutte i salutini che ci sono, che quell'acqua sporca che ha fatto mi ha tutti sporcati, mi ho rasato l'erba, adesso penso se rimane questa temperatura in settimana di attaccare anche fuori dietro il muro, così rimane tutto pulito per l'inizio d'inverno, capito? Mi ho fatto già il carico del pellet, me l'ho tutto scaricato, messo nella pedana, faccio sempre movimento. Poi l'altro giorno, il sabato, sono andato a tagliare il baggio da Coso, a dare una mano a Walter, c'era anche Tino, insomma, sono sempre in movimento, domani mi pare devo fare qualche altro lavoro con Fabrizio, sono sempre in movimento, sempre, però camminare, sto camminando molto meno rispetto a quando ero in città, perché molte volte uscivo a piedi, capito? E invece qua, cazzo, cosa dici a piedi, minchia, se dici a piedi me ne messani. Anche qua se ci aprire a piedi dove abito io, già lo sai, qua corrono meglio le facce, per carità. E allora già, e tu? Sempre con la tappelluzza? E io non posso camminare, sono coricato, sono sempre a dolori. Sino al 21 che dovrò andare a fare questa visita, sapevo cosa devo fare. È una prosogna, per carità. Niente, io domani devo fare qualche commissione, me ne esco, mi faccio qualche giro, chissà, niente, sono già che vengo a trovarti. Viene, passa, ci prende il caffè, non c'è problema. E io purtroppo faccio due passi, tu lì, già lo sai come te che non vedo l'ori. Ho preso Lucchi stasera prima di accendere la radio, perché per tanto tu non ci resisto, vado a ballare perché dai dolori non riesco a stare. Invece con Lucchi me li ha un po' calmati, non dico passati del tutto, ma sopportabili, va. Ti capisco, io sto contando i giorni già, meno 10, dai, domani meno 9, così mi fa la lastra, mi metto questo cazzo di scarpone che meno lastra, questo tuttore. Che pensate anche lui, l'altro è bene, sopra dentro e riposo bene. Quindi sera faccio un allenamento di tanto. Ma dice, ascolti, mi dici tu, non capisci più, mi dice a mezzo. Mi hanno detto, appena metto il tutore, mi raccomando, due settimane, fermo, non si muove neanche un piede per terra, ma vai, ci mi ha messo. Dopo due giorni già ho capito che ha cambiato la tappetta che mi è in casa, adesso per cambiare senza tappetta, con la massa all'altra, e lo sto prendendo pure, e comincio già col piede a mettere in terra, perché se non fai così, ti vai a fregare. Avanti qua. No, no, no, non dare retta a queste cose, perché anche mia moglie lo stesso, quando l'ho operata al cervago, no, pugno, qui, non là, dopo che gli hanno tutti i punti, ho detto, ascolta, come sta pugiati tu qui, per piacere, prima che ti si faccia piatto, cazzo, non riesci a camminare più. Fatalmente dopo due settimane poi andrà a pioggiare piano piano e inizierà a camminare. Ma fai, dopo due giorni stavo già camminando qua. E dirò, mi trovo molto bene, infatti qualcuno ha detto, io così camminese, che se pare che lo vai aiuta. Quindi dirò, quindi tu penso quelle strade che faccio camminando. Però la stampella quando vado fuori me la porto per sicuro, perché me la metto a destra, la faccio a sinistra e mi faccio meno forza quando appoggio l'altro, capito? Ho avuto sempre quella frattura lì, quindi. Ma comunque, sono stato bene, c'ho ancora dito fotocattate, ma già sei svegliato da fare fisioterapia, quindi. Andò bene, andò bene. È così. Gianni, io mi auguro che tu ormai ti svegli e cioè non hai più il dolore della gamba e stai più bene. E direi, non mi devo più operare. Sì, grazie, che mi percorsi. Oh, yeah. Ma non è così, no. Come se lo sono consumato, l'unica cosa da fare è tagliare e mettere la protesi come hanno fatto con l'altro. L'altro l'ho recuperato al 100%, Tony. È come se io avessi lo suino, non mi accorgo di nulla, non mi dà dolori, non mi dà nulla. Il primo periodo, dopo che mi hanno operato, un po' mi faceva male, poi hanno smesso i dolori e poi sono stato tranquillo. Dopo l'anno io camminavo spedito, tranquillo, senza zoppicare. Tutte le cose ci vuole il suo tempo, già io sono dal giorno 16 luglio che sono incasinato. Poi la macchina non mi mette più in moto, ma c'è la batteria, è fatto un giro di moto, io ho comprato la batteria nuova, che non c'è neanche bisogno di la batteria, perché me ne ho regalato un'altra, che era in buone condizioni, ma insomma c'è la batteria che me ne ho regalato, ma che la metto partito, anche la batteria è in difetto. La compro nuova, 4 giri di motorino, e si stacca, ci blocca subito. Qualche uno ha parlato con l'altro, se no le spazio che sono bloccate. Quindi niente, adesso quando riesco a togliermi questo scarpone, che metterò le scarpe bene, e chiamo il caratterista, intanto non lo pago perché ce l'ho sul GPS in macchina, ma si chiama il pulsante e vengono fin qua e me la porto meccanico. E oggi ho parlato con meccanico, ma poi sarà qualche fesseria, la porto qua qualche giorno. Però devo sempre chiamare qualche giorno prima per prendere l'appuntamento. Vabbè, se no avrei preferito mettere in moto, lasciare un'ora accesa, ma che invece 2 mesi e mezzo ferma, poverina, dai, avanti qua. Ma poi c'è sempre quello qui più, cos'è? No, io ho la Clio, ho bianca. La Clio. No, vabbè, avevo visto quella da Roberto. No, quella da via subito. Questa macchina è mio figlio, però comprava, lui ha preso la macchina più grande, più bella, diesel. E lui mi ha regalato questa qua, che poi tra l'altro è gettata stesso a me. È una Clio 16 valvole Sport. Sì, andano bene con le macchine. Con il motore Renault viaggiano alla grande, non c'è problema. Vai già. Sì, ma il motore si accendeva tu lì. No, non girava, il motorino tra, e si bloccava proprio. Il motorino, niente, non continuava. Infatti, ma noi metto, e bisogna mettere in discesa, mettere in moto, e se fuori pure in moto, cosa vuoi, ma la grosso. Prova a fare una cosa, dove saranno incollate le spazzole del motorino. Uno deve girare la chiave e l'altro dare i colpi con un bastone al motorino. E magari si stacca la mette in moto. Ma ci vorrebbe due persone giocare giù la già. Non so neanche che c'è il motorino. Non mi senti camera, se ne ha portato. Ma qua è bassa. 9.30, no? Ma io mi se la finisci, se no sto chiudendo, non c'ho tempo da perdere. Ma io guardo, non ti rimane subito tranquillo, ma sto già tranquillo. Dai, non mi sento. Ciao, vi saluto, adios. Ciao, ciao. E se non ci sei, ciao. Non vi sento, Gianni, non passa né tu né lui. A te che posso, Torino, a te che posso. Non è possibile, guarda, ti passa a casa. Io già posso rimediare, non è problema. C'è un problema, possiamo rimediare. Mi ascolta adesso Claudio? Sì, se non metto la portante sì, vediamo. La metto a me. Sì, la sto mettendo a tutti. Sì, tu passi se agganci, però Tonino non lo sento. E le punti metto la portante. Non lo so, un bel forte qua, no, non ti sento tu, mi sento Gianni se rimane agganciato, se no no, non mi fa parlare così, dai, siamo in tre, no, oggi va via da Rasura, dai, vi saluto, un abbraccio, buon fine domenica, ciao. Ciao, ciao, Claudio, grazie all'amico per averci rovinato il questo. Ciao, Claudio. Giulio, è quel vecchio, lo che sei tu. Sono lì, ti copro a te, lo sai, con la metà faltante non ti sento manco io. Questa linea l'ha messo. Ma se non c'è quella scatola, attacca, la frega a te. Ti terremo. Contenta, segui. Giulio, metta la portante, bocca sei giù su. Metta la portante. Vai, comprati la dentiera, che se vuoi te la mazzo con io la roba lì. Senti, non mi piace. Chi è, chi è? Ah, Tony. Ma... Gianni, vabbè, mi scuso, ciao. Luca. Sento che ti ascolto, Tino, là dove sei? Si sta bene lì al mare? Infatti, no, ma dico, com'era il mare? Calmo, c'era vento. E anche il bagno ti ha fatto sto bene. Hai fatto bene, là. Ti sei rilassato, insomma, hai passato una domenica tranquilla. Beh, bisogna dare un po' di vitamine. Ehi, era calata, era ieri. Quindi si è rimessa a posto. Ehi, vai, vai, tranquillo, ti. Santiago Nove, Radio 5. Io ti sento bene perché quella è la zona tranquilla per me, là. È libera per me. Vai, vai, tranquillo. Claudio, ci sei? Sì, no. Hola. Hola. Hola. Canale, canale, canale, canale, canale 10, cambio! Un 3x9, in quale 40 c'è gente invece. È un QRM pazzesco. Che so, sto calando a fare. Giulio Bocca Senso, sono esibio. Oh, poi, boh, dove ti trovi più a calci in culo? Guasto, va di a Edo, è il nostro paese a mettiera, cuglione.